Perfetta notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Genovese, vieni fuori! Hai diritto di non parlare! Tutto ciò che dirai può essere usato contro di te! Hai diritto a un legale, genovese! Vieni fuori! Tanto sappiamo che non li hai presi tu quei 6 milioni! Sei un delatore, basta! Fai i nomi! Genovese! Io ti dichiaro in arresto in nome del popolo italiano! Vieni fuori! È lì! Vieni fuori! Vieni fuori! Non sei ancora in Libano! Vieni fuori! E questo, cara ascoltatrice, cara ascoltatore, era Grillo, l'avete riconosciuto naturalmente dalla voce, faceva un po' una parodia di quello che è successo oggi, comunque un fatto drammatico, ma che si capiva doveva prendere questa strada. Beppe Grillo, che ha fatto questo piccolo video che girava in un bosco, faceva finta di cercare Francantonio Genovese, cioè il deputato del PD che, per il quale oggi è stata data la Camera, ha votato l'autorizzazione all'arresto con 371 sì. Quindi diciamo questa la notizia della giornata, quella che trovate anche come primo titolo un po' dappertutto. Che cosa ne pensate di questa situazione, di quello che è successo? Forse una delle rare volte che il Parlamento ha votato per l'arresto di un parlamentare. C'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, quella la trovate sempre a qualsiasi ora, a qualsiasi minuto, e poi ci sono i messaggi, gli sms al 349-238-6666 per esprimervi su questo argomento o sui vari temi che tratterò questa sera, come sempre, sono tanti, ve li riassumo tra poco, e poi ci saranno diversi ospiti, tra cui anche la Ministra dell'Istruzione Giannini. Caso Genovese, la Camera con scrutinio palese vota il via libera all'arresto, contrari Nuovo Centrodestra, Forza Italia e 6 deputati del PD. Crisi frena la crescita italiana, il PIL, prodotto interno lordo, nel primo trimestre è a meno 0,1%, scusate, e lo spread è in risalita. Occupazione, via libera definitiva della Camera al decreto lavoro e c'è l'accordo per la Electrolux. Sudan, una donna cristiana rifiuta di convertirsi, sarà impiccata, incinta di 8 mesi, condannata anche a essere frustata per adulterio poiché il suo matrimonio con un cristiano non è considerato valido e quindi considerato adulterio. Notte dei musei, Colosseo sarà aperto ma non per tutti. Cinema, l'Italia sbarca a Cannes con Più buio di mezzanotte, che racconta la vita difficile di un giovane gay nella Sicilia degli anni 80. E per il ciclismo, 6ª tappa al Giro con arrivo in salita, vittoria della maglia rosa Matthews davanti a Santa Romita. Partiamo quindi dal caso del giorno, il caso Genovese. Alla fine la Camera ha votato sì a maggioranza per l'arresto del deputato Francantonio Genovese, accusato, vi dicevo, di associazione a delinquere. 371 favorevoli, 39 contrari, via libera l'arresto di Francantonio Genovese, deputato democratico accusato dalla procura di Messina di associazione a delinquere, riciclaggio, peculato e truffa. Si chiude così nel giro di poche ore una vicenda parlamentare che rischiava di mettere in imbarazzo il PD e che aveva provocato gli attacchi infuocati del Movimento 5 Stelle. Decisiva l'accelerazione del premier Renzi affinché si votasse oggi e con voto palese. Il partito inizialmente si era espresso per un voto dopo le europee per evitare strumentalizzazioni. Il Movimento 5 Stelle ha bisogno di agitare uno scalpo in campagna elettorale, aveva tuonato il capogruppo del PD Speranza in aula questa mattina. È un'indecenza che noi non permetteremo! Avete bisogno di un trofeo, di sangue che scorre! Poi la svolta di Renzi, di cui ora i grillini si attribuiscono il merito, così Francesco Duva. Vi sarebbe piaciuto proteggervi l'un l'altro, lasciando i cittadini ignari e inconsapevoli delle vostre manovre di palazzo. E invece ci siamo noi, pronti a sbugiardarvi. Ad approvare la richiesta d'arresto sono PD, Movimento 5 Stelle e SEL, contrari Nuovo Centrodestra e Forza Italia. Noi siamo garantisti sempre e comunque, commenterà poco dopo Silvio Berlusconi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma altro tema in primissimo piano oggi è un sussulto di crisi economica, se così possiamo dire, mai passata, però delude il dato sulla crescita della nostra economia. Nel primo trimestre il PIL, cioè il prodotto interno lordo, la ricchezza del paese, è calato dello 0,1%, va male anche la borsa, in risalita lo spread, tra l'altro tra BTP decennali e omologhi tedeschi, fino a 179 punti. Un arretramento pari a 14 anni, il dato sul PIL italiano coglie tutti di sorpresa, gettando più di un'ora un'ombra sulle speranze ormai acquisite di un'imminente uscita dalla crisi. Il problema sta tutto in quel decimale in meno di crescita fatto registrare dalla penisola nel primo trimestre 2014. In valori assoluti, per trovare un PIL inferiore nella serie Istat bisogna tornare addirittura al primo trimestre 2000. Ma in quegli anni, per quanto anemica, la tendenza dell'economia italiana virava verso la crescita. Nel pomeriggio una nota del Tesoro ribadiva che a rilanciare consumi ed economia sarà il taglio dell'IRPEF, insieme a un cambio di registro in direzione proprio della crescita che dovrebbe arrivare dal semestre italiano alla guida dell'Unione Europea. Spiegazioni che sono suonate come pannicelli caldi, basate su aspettative più che su certezze, spiegazioni che hanno fatto il solletico ai mercati in caduta libera. Il Tesoro ha notato come il rallentamento economico sia stato comune ad altri paesi europei. La Francia registra crescita zero nel primo trimestre, l'Olanda fa addirittura segnare un meno 1,4%, giù di 7 decimali il Portogallo, ma a ben guardare il quadro è in chiaroscuro. La Germania vola più 0,8% al pari della Gran Bretagna, mentre la Spagna è positiva di 4 decimali. Bruxelles ne prende atto, dai dati sul PIL emerge un quadro misto, vanno presi con cautela, non illustrano un trend, così la Commissione Europea. A questo punto l'azione annunciata della BCE con un taglio dei tassi a giugno diviene più che una probabilità, una certezza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è in tutto questo però almeno una notizia positiva ed è l'accordo per la Electrolux. Niente licenziamenti. Il premier Renzi, i ministri Poletti e Guidi, il sottosegretario Del Rio, quattro presidenti di regione e i rappresentanti di tre sigle sindacali hanno dato il timbro della formalità e dell'ufficializzazione all'accordo già trovato ieri con Electrolux. Il piano evita chiusure traumatiche, i quattro impianti italiani restano aperti. Electrolux ha fatto i suoi conti. A fronte della riduzione del cuneo fiscale locale e della disponibilità di strumenti di welfare nazionale, per ora ci sta. Non ci saranno allontanamenti traumatici dal posto di lavoro per nessuno dei 6.000 addetti. Anche se, in realtà, per il 2018 la sostenibilità del nostro paese, nello scacchiere di una multinazionale come Electrolux, è comunque vincolata a una riduzione del personale compresa fra gli 800 e i 1.200 addetti. Tutto bene. Anche se, nonostante questo accordo, per il nostro paese persiste un problema di competitività strutturale con l'industria dell'elettrodomestico. Paolo Bricco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre oggi l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto lavoro, ne abbiamo parlato molto ieri qui a Effetto Notte. Il contratto a termine non può avere una durata superiore a 36 mesi e il numero complessivo di contratti a tempo stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato. Sconto del 20% sui contributi per i datori che stipulino contratti di solidarietà. E passiamo al caso Scajola. I magistrati indagano sulla rete di legami tra Amedeo Matacena e altri membri di Forza Italia. Nell'inchiesta che ha portato all'arresto di Claudio Scajola potrebbero entrare anche altri esponenti di Forza Italia. La procura di Reggio Calabria sta infatti cercando di ricostruire i rapporti fra altri rappresentanti del partito ed Amedeo Matacena, l'imprenditore messinese, ex parlamentare azzurro, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e ritenuto una figura centrale nell'intreccio di rapporti fra comitati d'affari e cosche dell''Ndrangheta emerso dall'inchiesta. È stato con l'accusa di aver favorito la sua latitanza, Scajola sarà interrogato domattina nel carcere romano di Regina Coeli. Gli inquirenti in queste ore stanno esaminando parte del materiale sequestrato all'ex ministro e la prossima settimana andranno anche in Liguria per analizzare le centinaia di faldoni di documenti che fanno parte dell'archivio trovato nella sua villa di Imperia. Potrebbero essere più lunghi del previsto, intanto i tempi per l'estradizione dalla Francia di Chiara Rizzo, la moglie di Matacena, molto legata a Scajola, dovrebbe infatti rientrare in Italia non prima della prossima settimana. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vi aggiorno su una notizia di questi istanti, un'agenzia che arriva ora, genovese, cioè appunto il deputato del PD per il quale oggi è stata data dalla Camera l'autorizzazione all'arresto, si è costituito in carcere a Messina. È successo poco fa. Passiamo adesso all'altra importante vicenda giudiziaria, a parte quella di Scajola di questi giorni, che è l'inchiesta milanese su Expo 2015. Ora si muovono anche i giudici contabili, mentre divampa sempre di più lo scontro interno alla Procura di Milano. Ora sugli appalti Expo indaga anche la Corte dei Conti, ora che l'inchiesta sulle presunte tangenti si allarga e all'ombra di questo fascicolo si consuma uno degli scontri senza precedenti. Il CSM non ascolterà di nuovo, come aveva chiesto Alfredo Robledo, il procuratore aggiunto che ha dichiarato guerra al suo capo Bruti Liberati, ma entrambi potranno mandare altre spiegazioni per iscritto prima di martedì, quando almeno la settima commissione dovrebbe arrivare ad una conclusione. Tutti chiedono di fare presto a tutela Bruxelles di una delle procure da sempre più esposte, avverte la NM, per evitare delegittimazioni, rincara Ilda Boccassini. Il capo dell'antimafia milanese conferma la linea di Bruti liberati. Il doppio pedinamento degli indagati Expo purtroppo ci fu, racconta, da parte di due squadre della Guardia di Finanza. Circostanza smentita in modo netto invece da Robledo, che tra le contestazioni al procuratore ha elencato pure l'assegnazione dell'inchiesta Ruby. Mi è stato chiesto dal procuratore di occuparmene, spiega Boccassini, che racconta di aver ricevuto gli ultimi proiettili dopo l'affido ai servizi sociali di Berlusconi. In questo clima da guerra dichiarata, l'inchiesta Expo si allarga e tra l'altro punta a sciogliere il giallo delle visite di Primo Greganti in Senato. Ci sono i pedinamenti e le intercettazioni, ma Palazzo Madama fa sapere che nessun accesso è registrato. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Spostiamoci adesso all'estero, in Turchia, dove c'è stato lo sciopero generale per la tragedia avvenuta ieri alla miniera di Soma, con 283 vittime sinora accertate. Alberto Negri. Kazım Pasha, il quartiere dove Erdogan per mantenersi agli studi vendeva limonate, ha il carattere sanguigno e popolare della vecchia Istanbul, la rissa facile e qualche volta luccica anche la lama di un coltello. Dobbiamo stupirci se il primo ministro e il suo seguito hanno fatto a botte con la gente inferocita di Soma, la città dove la miniera ha inghiottito la vita di 282 persone? Erdogan sarà anche il candidato favorito alle elezioni presidenziali di agosto. Il primo ministro, nonostante le voci che lo davano seriamente malato, appare in perfetta forma per salire sul ring, figuriamoci per guidare un paese come la Turchia. Eppure c'è qualche cosa che non va in quest'uomo, che da un anno ha imboccato una deriva autoritaria, non piace più come un tempo agli americani, che lo ritengono una sorta di Putin minore, mentre in politica estera non ne è imbroccata una, dalla Siria all'appoggio ai fratelli musulmani in Egitto. La sua parabola appare discendente e proietta un'ombra inquietante sulla stabilità della Turchia. Ai tempi della primavera araba si proponeva come il nuovo modello di campione musulmano, ma sul ring di Soma rischia di perdere vergognosamente la corona. Adesso invece spostiamoci in Africa, già ne abbiamo parlato diverse volte in questi giorni, delle studentesse nigeriane rapite, costrette a convertirsi all'Islam, che i terroristi di Boko Haram minacciano di vendere al mercato come bestiame a $12 l'una. Adesso ne viene un'altra storia dal Sudan, sempre in Africa, una donna di 27 anni è stata condannata a morte per non essersi convertita all'Islam. Le sono stati concessi 3 giorni per rinnegare la propria fede e convertirsi all'Islam. Sapeva di rischiare l'impiccagione, ma non ha abiurato. Così la sudanese Meriam Yeya Ibrahim Ishag, all'ottavo mese di gravidanza, è stata condannata a morte per apostasia. La ragazza è sposata con un cristiano, ma la legge islamica in vigore in Sudan non considera valida l'unione, che è perciò considerata adulterio. La repressione nei confronti dei cristiani è in continuo aumento nel paese, nonostante il governo neghi e le manifestazioni di solidarietà che arrivano da tutto il mondo. La comunità di Sant'Egidio e quella ebraica hanno organizzato una fiaccolata ai piedi del Colosseo a Roma a sostegno di tutti i cristiani che rischiano la vita. Saranno le uniche luci a brillare, perché quelle del Colosseo si spegneranno in nome della libertà religiosa. Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio. Quello che noi chiediamo è che tutti i paesi del mondo accolgano il grande diritto della libertà religiosa. Erika Magnello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso in Italia parliamo di Rai, via libera del consiglio di amministrazione dell'azienda al taglio dei compensi che devono stare entro i 240.000 euro, stabilito questo taglio dal governo. Scende lo stipendio della presidente Anna Maria Tarantola da 366.000 quindi a 240.000. I dirigenti per i quali la delibera non si applicherebbe in realtà si autoridurranno comunque lo stipendio. Intanto sono arrivati emendamenti trasversali in Senato per evitare i tagli, 150 milioni previsti per la Rai dal decreto IRPEF. La richiesta di sopprimere questa misura arriva invece da PD, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Il Colosseo, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, vi ricordate, con la sottosegretaria dei beni culturali Borletti Buitoni, abbiamo parlato della notte dei musei, il 17 maggio, dove i musei italiani resteranno aperti dalle 20 alle 24, e si era affrontato il caso del Colosseo, che per l'occasione sarebbe rimasto chiuso per non aver trovato 5 custodi che volessero tenerlo aperto. Ebbene, è stato raggiunto l'accordo per l'apertura dell'anfiteatro, ma le visite saranno limitate. Saranno 3.000 i turisti che nella notte dei musei potranno varcare gli archi del Colosseo. Alla fine il monumento italiano più famoso al mondo aprirà i cancelli, ma solo per un numero limitato di visitatori. Dopo le polemiche degli ultimi giorni sulle carenze di organico e la ricerca dei 5 custodi disponibili ad aprire i cancelli dell'anfiteatro, i sindacati hanno raggiunto un accordo con la soprintendente dei beni archeologici della capitale, Maria Rosaria Barbera. Percorso predefinito, prenotazione per le visite e numero chiuso. Per trovare dell'altro personale verrà effettuato un appello interno che rafforzi i dipendenti disponibili. L'apertura del famoso anfiteatro simbolo dell'Italia nel mondo in occasione dell'evento culturale che si terrà sabato dalle 20 alle 24 in tutta Europa non ha chiuso però la questione sui dipendenti. I sindacati hanno chiesto infatti un incontro al ministro dei beni culturali Franceschini per discutere delle carenze di organico e delle condizioni di lavoro nel Colosseo. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora il cinema. Oggi a Cannes è sbarcato il primo film italiano, Più buio di mezzanotte, storia di un ragazzo omosessuale, ma di questo parleremo più tardi direttamente in collegamento con Cannes. E per chiudere il ciclismo, la maglia rosa Michael Matthews si è aggiudicato la sesta tappa del Giro d'Italia di 257 chilometri. Sul traguardo in salita di Monte Cassino, Matthews, che con la vittoria di oggi ha ulteriormente consolidato il primato in classifica, ha preceduto l'italiano Ivan Santaromita e l'altro australiano Cadel Evans. Con questa notizia direi quindi di chiudere questa prima parte di riassunto. Vedo già i vostri messaggi sulla pagina di Effetto Notte Facebook, oppure gli sms al 349-238-6666. Per esempio Luca da Verona scrive: il PD non aveva scelta, si riferisce immagino al caso genovese, grazie alla pressione dei 5 Stelle la giustizia è uguale per tutti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo quindi, fatto il riassunto adesso con diversi ospiti, approfondirò con me al solito alcuni argomenti, diversi giorno per giorno chiaramente, però vedo Beatrice che scrive se ci sono notizie delle ragazze nigeriane rapite, mi fa piacere naturalmente questo interesse che deve rimanere sempre molto alto, e leggo giusto un flash di agenzia di pochi istanti fa, Nigeria, il presidente visiterà domani il luogo del rapimento delle liceali che è mi pare nel nord del paese, è una scuola, adesso certo visiterà il luogo del rapimento, però le ragazze stanno da un'altra parte, vuol dire che un minimo di interessamento c'è, poi capiremo che sviluppi può avere questa visita. E poi un'altra notizia è che è ufficiale che Moretti è stato nominato amministratore delegato di Finmeccanica. Adesso però vi dico anche quali sono le altre notizie prima di passare al primo tema da affrontare. Caso genovese, la Camera con scrutinio palese vota il via libera all'arresto, contrari Nuovo Centrodestra, Forza Italia e 6 deputati del PD. Crisi frena la crescita italiana, il PIL nel primo trimestre è a meno 0,1% e anche lo spread è in risalita. Occupazione, via libera definitiva alla Camera del decreto lavoro. In Sudan una donna cristiana rifiuta di convertirsi, sarà impiccata, tra l'altro incinta di 8 mesi. Notte dei musei, il Colosseo alla fine sarà aperto, la notte del 17 maggio, ma non per tutti. Per il cinema l'Italia sbarca a Cannes con Più buio di mezzanotte. Caro Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, ciao Chicco. Ciao, buonasera, ciao. Allora, titoli e vari lanci, insomma, l'improvvisa burrasca economica, si parlava ormai da giorni, cioè la crisi è sempre naturalmente in pieno sviluppo, però di recente insomma, cominciavano a sentire voci di una leggera ripresa, di una piccola crescita, di un po' di miglioramenti in vista, anche se piuttosto lontani. Invece oggi questa burrasca economica, il ritorno della decrescita, il balzo dello spread verso quota 180, il tonfo di Piazza Affari, diciamo che non inducono all'ottimismo tutti questi elementi. E tra l'altro è un momento anche molto delicato, se vogliamo dire, Chicco, perché non è un buon biglietto da visita nel momento in cui c'è la campagna per l'Europeo, no? Siamo un passo dal voto. Sì, diciamo, hai detto bene tu, insomma, un dato assolutamente inatteso, fulmine ciel sereno, se posso dire. Tutti aspettavano una crescita della ricchezza del prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2014, era atteso un più 0,2%, un dato che diciamo avrebbe confermato l'inversione di tendenza che diciamo, è in atto da alcuni mesi. L'ultimo trimestre del 2013 ha fatto segnare un più 0,1, il trimestre precedente eravamo rimasti sullo zero, arrivavamo da 6 semestri negativi di PIL, quindi insomma erano segnali importanti che inducevano anche a ritenere che la stima, la previsione del governo di arrivare a fine anno con un più 0,8% di crescita del PIL sarebbe stato un obiettivo, diciamo, possibile. Beh, qualcuno era più scettico, l'Europa ad esempio diceva 0,6 eccetera, invece oggi ci dicono, l'Istat ci ha detto che siamo tornati col segno meno, quindi nel primo trimestre di quest'anno del 2014 il PIL è sceso dello 0,1%, che è un dato insomma abbastanza brutto, che gela un po' poi tutti quei segnali positivi che qua e là si intravedevano negli ultimi mesi, insomma qualche dato positivo sulla produzione industriale, qualche dato positivo sui consumi, insomma ce n'erano di segnali, ci sono alcuni segnali positivi. Questo dato insomma raffredda un po' tutte le attese. Un dato secondo me ancora peggiore, perché diciamo che purtroppo, con l'eccezione della Germania che invece fa un buon risultato, più 0,8% nel primo trimestre, che diciamo, proietta per il 2014 una crescita diciamo tra il 2,8 e addirittura il 3%, quindi diciamo a livelli per noi impensabili, però ecco, altri paesi, vedi la Francia che praticamente è ferma, vedi l'Olanda che addirittura scende, il Portogallo che di nuovo scende, la Spagna, il dato non è di oggi, di qualche giorno fa, che però è pure negativo, insomma inducono non più a quell'ottimismo che gli ultimi mesi ci avevano così un pochino portato. Quindi più che segnali di fumo, quelli di buone notizie di ripresa, sono segnali andati in fumo. Ci spieghi sono perché? Ci aiuti a leggere? Segnali, sono segnali andati in fumo. No, poi c'è un altro elemento che insomma purtroppo anche questo non induce tantissimo all'ottimismo, è che i mercati oggi hanno insomma reagito abbastanza male a questi dati, quelli italiani e quelli europei, quindi abbiamo avuto una borsa che oggi ha avuto una seduta molto negativa, se ricordo bene in chiusura siamo a meno 3,6%, e soprattutto è ritornata anche questa in attesa la corsa degli spread e del, diciamo, gli interessi sui titoli, i tassi sui titoli di Stato, quindi il nostro spread che ormai navigava intorno a quota 150 oggi è risalito quasi fino a 180, penso abbia chiuso a 177, eppure il tasso sui BTP decennali che stava al di sotto del 3% oggi è risalito quasi al 3,1-3,08, stesso andamento ha avuto la Spagna, che ci fa capire quindi che questo è ancora abbastanza grave, che forse non è solo un problema italiano ma rischia di diventare ancora un problema diciamo più in generale dell'Europa e dei paesi più deboli dell'Eurozona. Quindi insomma, scusa, vedremo. Chico Padula, quindi alla fine non è neanche tanto un lavoro costruttivo andare a cercare fino nei dettagli le cause italiane, perché tu dici in realtà un problema più diffuso a livello europeo, quindi la crisi continua a mordere o cosa? Ci sono delle cause che riguardano il nostro paese? La crisi continua a mordere, certo. In particolare diciamo per l'Italia il calo del PIL è dovuto sostanzialmente all'andamento negativo dell'industria, quindi evidentemente insomma quei segnali di ripresa ordinativi e anche di fatturato negli ultimi mesi abbastanza positivi non lo sono stati così tanto da risollevare la ripresa del PIL, e questo diciamo è un problema nostro che noi dobbiamo affrontare, sappiamo che lo dobbiamo affrontare con le riforme, con gli investimenti eccetera. Poi diciamo c'è un problema più strutturale europeo, perché se viene meno la fiducia che i mercati in questi mesi avevano dimostrato verso i titoli di Stato dell'area periferica dell'euro, quindi noi ma anche la Spagna, il Portogallo, la stessa Grecia, allora questo diventa diciamo un problema più complessivo che apre scenari magari addirittura un po' più inquietanti per il futuro, insomma, perché noi ci ricordiamo benissimo i mesi passati, che non è tantissimo tempo fa, in cui insomma parlavamo solamente di spread e di tassi. Ecco, speriamo che non sia venuto meno questo tipo di fiducia degli investitori istituzionali, che vedevano nei nostri titoli di Stato un porto sicuro, cioè quindi un posto dove mettere enormi quantità di denaro. Oggi queste quantità di denaro hanno cominciato un pochino a defluire e ci sono state vendite massicce di titoli nostri e degli altri paesi dell'Eurozona, di quelli più deboli. Salvatore Padula, anche se appunto scenari inquietanti, speriamo di sentirci la prossima volta con una briciola, proprio squiglie anche di ottimismo. No, adesso come sempre è difficile trarre conclusioni da una giornata, no? Quindi per carità, adesso non dobbiamo essere troppo pessimisti, bisogna vedere che cosa succederà nei prossimi giorni. Purtroppo per il PIL dovremo aspettare la rilevazione trimestrale successiva, che arriverà ad agosto, se ricordo bene, quindi lì insomma il tempo è un po' più lungo, però insomma vediamo domani e la settimana prossima come reagiranno i mercati a questa situazione. Diciamo, insomma, domani un altro giorno, la prossima settimana anche. Grazie Chicco Padula, buon lavoro. Grazie sono a 24 voi, ciao, ore. Ciao. Ciao Chicco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano di nuovo con voi, stavo guardando le ultime notizie, adesso parleremo di altro, parleremo anche molto di politica e del caso genovese, non solo, però vi ricordo, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi, tutti che dicono grazie a 5 Stelle, i deputati ci penseranno due volte a delinquere, finita l'epoca dell'impunità, vedo molti messaggi un po' in questo senso, dicevo vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, se volete risentirle, semplicemente avere un riassunto della giornata, vi ricordo quali sono state le notizie principali. Prodotto interno lordo torna negativo, crolla la borsa, lo spread schizza a 180, paura sull'Italia, Renzi dice certo non fa piacere ma resto ottimista. Sì all'arresto da parte della Camera di Genovese, scontro tra PD e Movimento 5 Stelle a Montecitorio, interviene il Presidente del Consiglio che dice nessun rinvio e scrutinio palese, così è stato, 371 sì a scrutinio palese per l'arresto di Genovese. Taglia la RAI, deciso il tetto agli stipendi dei manager e giornalisti, poi per quanto riguarda il decreto lavoro ormai è legge. In Sudan una donna cristiana rifiuta di convertirsi, sarà impiccata e incinta di 8 mesi. La Turchia piange i suoi minatori e bufera sul governo, si aggrava il bilancio delle vittime, scontri e proteste nel paese. Poi l'Italia che sbarca a Cannes con la notte buia di un gay a Catania. E saluto a questo punto David Allegranti. Ciao David. Ciao, buonasera a chi ci ascolta. Che oggi era a Milano a presentare il suo libro, credo l'ennesimo, su Matteo Renzi, perché effettivamente Davide Allegranti ha un po' questo vizietto di essere biografo, diciamo, del Presidente del Consiglio, ma lo segue da parecchio, dal 2008, non ti sei ancora stancato, Davide? No, non mi sono ancora stancato, però sono il biografo non ufficiale, diciamo, ecco, quindi se posso anche consentire qualche, diciamo così, spigolatura, ecco. Sei il biografo ufficiale o non ufficiale, non ho capito. No, non sono il biografo non ufficiale. Non sei il biografo ufficiale, quindi è ancora meglio, più interessante, perché non sarai per forza geografico, non saranno le tue, no, solo delle elegie per quanto riguarda Renzi, scriverai quello che pensi. Si chiama The Boy, il libro dall'ultimo, perché quanti ne hai scritti? 2 o 3 di biografia? Sì, 2, uno nel 2011, quando insomma Renzi ancora non era molto noto, anche se aveva già lanciato la rottamazione, e adesso un altro che è uscito la settimana scorsa. Non escludo di farne un terzo, diciamo. Ecco. Non escludo, ce n'è di materiale, anche perché appunto dicevamo lo segui dal 2008 e in questo libro anche racconti chi è davvero Matteo Renzi, come ha governato Firenze e soprattutto come si propone di governare l'Italia. Ma prima di andare poi di ritornare a ritroso, diciamo, nella carriera di Renzi o almeno analizzarne alcune tappe, E oggi si è chiusa, lo sai, questa vicenda che teneva banco da diversi giorni, fatta di attacchi incrociati tra PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, proprio nel bel mezzo poi della campagna elettorale per le europee. Si vota il 25 maggio e oggi, come sai, l'Aula della Camera ha concesso l'autorizzazione all'arresto del deputato del PD Francantonio Genovese, accusato di associazione a delinquere. I voti a favore sono stati 371, 39 contrari, cioè hanno votato contro Nuovo Centrodestra, Forza Italia e anche 6 deputati del PD, mentre 36 deputati del PD, o 33 adesso non ricordo bene, 33 sì, erano assenti. Quindi questo, insomma, un'assenza, diciamo, un po' controversa, se così vogliamo dire. E vedo tanti messaggi, David, che mi stanno arrivando, di molti evidentemente simpatizzanti e sostenitori del Movimento 5 Stelle, che attribuiscono alla pressione del movimento di Grillo il fatto che poi il PD si sia deciso a votare per l'arresto. Che ne pensi? Penso che il PD e in questo caso Renzi non potessero fare diversamente, perché è evidente che nella polarizzazione dello scontro ci sono le europee, ci sono in ballo voti sonanti che riguardano questa insoddisfazione nei confronti della classe dirigente, non potesse fare diversamente, cioè bisogna dare un segnale, no? Un segnale che chi delinque ancora, diciamo, insomma, chi delinque deve essere giustamente sottoposto a giudizio, a processo, arrestato, eccetera, eccetera, perché lo scontro ormai è su questo livello, cioè cercare di dare soddisfazione agli umori, alla pancia della gente. Questa cosa sarebbe successo se invece Renzi si fosse incaponito per far votare il PD a favore dell'arresto. Sarebbe successo un disastro, perché il Movimento 5 Stelle ci sarebbe buttato a capofitto. E io penso che appunto questa sia ormai la sfida, non tanto con Forza Italia e Berlusconi, ma su queste tematiche qua: la legalità, la giustizia, il taglio agli sprechi, la guerra alla casta. E di queste cose, se non fossimo stati in campagna elettorale, forse le cose sarebbero state diverse, ma adesso è così. Cioè tu dici che il PD avrebbe potuto votare contro l'arresto, contro l'autorizzazione all'arresto? Avrebbe potuto rinviare, quantomeno, avrebbe potuto fare un po' di resistenza, avrebbe potuto vedere, però il Movimento 5 Stelle avrebbe insistito, avrebbe fatto appunto ancora pressione, se la sarebbe giocata bene in campagna elettorale, no? Già mi ci vedevo un post di Beppe Grillo che dice: ah, il PD salva Genovese. Sarebbe stato difficile da spiegare a un elettorato così volatile come quello di oggi, no? Per cui basta poco, un'impressione, un titolo di giornale sbagliato, una dichiarazione sbagliata a pochi giorni da una competizione importante. Il momento è delicato, insomma. Il momento è delicato. Senti, sì. Renzi ha detto: il PD applica sempre la legge anche ai suoi, l'ha scritto naturalmente tramite Twitter. E poi invece Berlusconi ci ha tenuto a far sapere, dice: noi siamo sempre garantisti, i nostri deputati hanno votato contro l'arresto. Renzi anche lui ha detto sempre di essere un garantista, no? In alcune circostanze topiche, anche per quanto riguardava alcune vicende fiorentine di quando lui era sindaco, sono momenti in cui vengono distorte anche gli ideali e le tensioni ideali in cui uno crede, per cui appunto magari vorrebbe essere garantista ma non se lo può permettere, cioè in questa continua rincorsa fra Renzi e Grillo, e lo testimonia plasticamente il fatto che la prossima settimana saranno in piazza tutte e due, uno a Firenze e uno a Roma, con il tentativo di riempire le piazze il più possibile per far vedere chi è che ha portato più persone. E su questo scontro purtroppo la ferocia provoca opposti estremismi, nel senso non c'è tempo per essere garantisti, purtroppo mi tocca dire così. Se lo fa permettere Berlusconi adesso questa cosa. Quindi Renzi diciamo che ha disinnescato la bomba genovese, via, no? Per questo, evitare appunto che pesasse, sì, poi. Sì, però appunto io diciamo, immagino nei prossimi giorni sarà la gara chi si attribuisce prima in merito, no? Grillo dirà: ha visto, se non c'eravamo noi, Genovese sarebbe ancora lì. E il PD rimarcherà che per loro la legge è uguale per tutti, a partire dai propri. Senti, invece, sulla questione del complotto che si è trascinata in questi giorni, presunto complotto ai danni di Berlusconi, molto si è detto appunto nelle ultime ore, in questi giorni, poi lui, l'ultima risposta che ha dato l'ha data Napolitano, Berlusconi, che ha detto che in realtà le sue dimissioni, al contrario di quanto sostenuto da Napolitano, non sono state libere ma responsabili, quindi sono state responsabili ma non libere, come se dicesse effettivamente sono stato pressato in quel senso. Ed il commento di Massimo D'Alema, perché al di là di quello che ha detto Berlusconi, che è già stato sufficientemente commentato in questi giorni, Massimo D'Alema dice: non è vero che c'è stato un complotto, ha detto oggi, ma se fosse stato vero dovremmo ringraziare di nuovo i nostri alleati per averci salvati un'altra volta, come durante la Seconda Guerra Mondiale, dal fascismo. Diciamo, è andato leggero, è andato a Cassapiano, come si dice quando si parla di calcio. Questo forse D'Alema è il dente avvelenato fuori tempo massimo. Sì, fuori tempo massimo, effettivamente. Esatto, fuori tempo massimo, come gioco di parole anche. No, diciamo di questo mi pare un'affermazione eccessiva, non si può giustificare un complotto. Poi in realtà, cioè, qui ci arriviamo sempre anni dopo, fra Friedman e altre cose, testimonianze di ministri del tesoro esteri che ci spiegano com'è che avviene la realtà delle cose dopo qualche tempo, e certe volte tra l'altro la tempistica dovrebbe destare qualche sospetto, però questo lasciamolo stare, che non siamo dietrologi. La cosa che mi sembra un po' grave è che D'Alema auspichi la caduta di un governo per mano di un presunto complotto, e diciamo così la rivendichi pure e faccia accostamenti con il fascismo, che forse sono un po' fuori luogo, anche perché voglio dire tutti a D'Alema la prima cosa che viene sempre rinfacciata è quella di aver inciuciato con Berlusconi. Proprio con, no? Berlusconi, che... al tempo della bicamerale, oltre, esatto, sul conflitto di interessi, eccetera. No, dici, quindi fuori tempo massimo, come dicevi, poi dopo fa quello col dente avvelenato. Senti, invece, ritornando al tuo libro, alla tua biografia, nuova biografia su Renzi, che cosa c'è di nuovo da raccontare di Renzi, di inedito, Davide Allegranti? Diciamo così, c'è da raccontare la presa del palazzo, cioè come lui, anche contraddicendosi rispetto a quello che diceva, vi ricorderete, Enrico Stai Sereno, oppure quando diceva io non voglio fare il segretario del PD e poi l'ha fatto. Adesso, cioè, nessuno vuol sentirsi dire stai sereno, stai serena, tutti si preoccupano moltissimo. Sì, mi succede anche a me, ogni tanto parte uno stai sereno e subito la gente fa gesti apotropaici. Però insomma è il racconto della, il libro è il racconto della presa del palazzo, il racconto dell'assalto alla dirigenza, ed è l'analisi critica anche del gruppo dirigente che lui si porta. Io una domanda che mi faccio nel libro è questa: ma la classe dirigente di Renzi qual è? Al di là del giglio magico, al di là che è quel gruppo dei ristretti collaboratori, al di là, qual è la classe dirigente che sta allevando Renzi? E la risposta è che evidentemente non si vede per ora, e chissà se arriverà dopo, anche perché Renzi è abile nel rottamare e riciclare persone. Cito il caso delle primarie del 2012. Gori? Non solo Gori, Giorgio Gales, Gori. Poi però recuperato in un CDA dell'ENI, Pichino, che però se n'è andato via, ha cambiato partito, da Empoli che c'era ed era l'architetto del programma. Insomma, tra l'altro questa cosa la sottolineavo parlando con Peter Mandelson, che è lo storico collaboratore di ex storico collaboratore di Tony Blair, perché tu lo paragoni in The Boy, lo paragoni un po' a Tony Blair, no? Diciamo io no, nel senso è una cosa che si dice sempre, no? Renzi è il Tony Blair italiano, sì. In realtà ci sono molte differenze. La prima è che, diciamo così, lo spiega per esempio bene Mandelson, che ha frequentato bene Blair, è che quando per cominciare Blair, quando è diventato, quando ha preso il potere, diciamo così, non aveva grandissima esperienza alle spalle, no? Non aveva mai amministrato niente, invece Renzi sì, ha fatto il sindaco, e questo dice Mandelson è una cosa che gioca a suo vantaggio. Contrariamente a Blair, però, Blair si era preso prima il partito, aveva lasciato passare un po' di tempo e poi era diventato capo del governo. Invece Renzi ha fatto una scalata senza fine, praticamente, sì, tutto d'un soffio. Esatto, il problema adesso qual è? È che quella rivoluzione annunciata nel PD è rimasta congelata, perché ora va bene che Renzi sembra Mandrake certe volte, però non puoi fare il segretario del PD, il presidente del Consiglio, cioè lo puoi fare, però diciamo così, la rivoluzione annunciata nel Partito Democratico era un po' congelata. È un po' congelata, è quel che si dice il fact checking, cioè a un certo punto si fa la verifica di cosa è stato attuato finora. Ma avremo tempo poi di ritornarci, lasciamogli ancora un po' di tempo. Grazie Davide Allegranti. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione la tua, il tuo inseguimento di Renzi e delle sue biografie. Adesso prendiamo pochi istanti di pausa con la viabilità e a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi qui sempre con voi, tra poco affronteremo un altro argomento, parleremo di Europa e parleremo, se riusciamo a raggiungerla, con la ministra dell'istruzione Giannini. Prima però, lo sapete, dopo una pausa qualcuno accende proprio in quel momento, vogliamo ricordargli o ricordarle quali sono stati i fatti principali della giornata che si sta chiudendo. Caso genovese, in primissimo piano la Camera con scrutinio palese vota il via libera all'arresto del deputato PD, contrari il nuovo centrodestra, Forza Italia e 6 deputati del Partito Democratico. Tra l'altro Francantonio Genovese si è costituito proprio questa sera, poco fa, nel carcere di Messina. Crisi, frena la crescita italiana, il prodotto interno lordo nel primo trimestre è a meno 0,1% e sale lo spread. Occupazione, via libera definitiva alla Camera al decreto lavoro. In Sudan abbiamo parlato della donna cristiana che rifiuta di convertirsi, sarà impiccata incinta di 8 mesi. E per il cinema l'Italia sbarca a Cannes con Più buio di mezzanotte, che racconta la vita difficile di un giovane gay nella Sicilia degli anni 80. Ciclismo, sesta tappa al Giro con arrivo in salita vittoria della maglia rosa Matthews. Europa 24 notte. E per quanto riguarda l'Europa, stasera protagonista Scelta Civica, chi meglio la può rappresentare della ministra Stefania Giannini, ministra dell'istruzione, nonché segretaria di Scelta Civica. Buonasera, bentornata ministra Giannini. Buonasera a voi. Senta, intanto se vuole proprio brevissimamente, mi interesserebbe un suo commento su, proprio sintetico, sul caso genovese, se vuole. Ma su questo caso credo che il Parlamento, la Camera sia espressa come doveva, insomma, no? Quando ci sono prove così schiaccianti, credo che si debba necessariamente assumere la responsabilità di staccarsi da una politica che non è quella che vogliamo portare nel paese, particolarmente noi che abbiamo scelto di lasciare temporaneamente i nostri lavori, le nostre professioni per dare anche un modello diverso di comportamento. Quindi l'unico commento che mi sento di fare è che credo che sia stata fatta la scelta giusta. Ministra Giannini, proprio un così in passant molto velocemente, c'è stato il via libera di Palazzo Madama del Senato al decreto scuola, proprio in pochi secondi cosa contiene, perché poi invece parliamo del vostro programma per le europee. Ma sinteticamente risolve due questioni spinose. Una riguarda i dirigenti scolastici, siamo partiti dalla Toscana con un concorso che era stato parzialmente annullato e che rischiava di non far avviare in maniera corretta e funzionale le scuole con i loro dirigenti al prossimo anno scolastico. Quindi questo provvedimento mette in sicurezza questo problema, anche se naturalmente il tema dei concorsi, che anche in questo provvedimento è messo in prospettiva per i prossimi mesi, è quello che risolverà tutta la situazione che finora è stata molto complicata. L'altro punto riguarda i lavoratori socialmente utili, insomma quelli che fanno le pulizie nelle cooperative, che hanno avuto vicende travagliate, soprattutto in Campania e in Sicilia, che rischiavano di restare in mezzo alla strada. Quindi, per dirla con semplicità, è un provvedimento che risolve emergenze. Io vorrei cominciare a passare dalle emergenze alle strategie, perché è un ministero che merita questo, diciamo. Giusto, prima delle vostre strategie invece per l'Europa, come Scelta Civica, diciamo le principali, i primi due punti, c'è tanta di istruzione, anche lì istruzione, non distruzione, c'è tanto di istruzione. Sì, istruzione, tanto di istruzione, tanto la scelta, la nostra coalizione si chiama Scelta Europea, mi pare che il nome sia molto eloquente. A noi pare che solo in una dimensione europea si affrontino e si risolvano i grandi temi e le grandi questioni. È un'Europa che non è stata ancora completata, ha bisogno di un omogeneo processo, appunto, di formazione, di educazione dei nostri ragazzi perché siano i cittadini del domani, ha bisogno soprattutto di una politica unitaria che non faccia esplodere focolai a rischio esplosivo come quello dell'Ucraina e che quindi dia risposte unitarie su questi temi, perché la pace non è un bene che viene dal cielo, è un bene che si costruisce nel corso di decenni e dobbiamo ricordarcelo soprattutto in questo momento, e soprattutto un'Europa economica e fiscale che sia unita e che sia, insomma, credito alle imprese, che sia salvaguardia dei risparmi e dei redditi fissi, e Dio ci scampi, non ritorno nemmeno nei sogni, anzi per me sarebbero incubi, a monete uniche che sarebbero cenerentole nella scena globale e scatenerebbero solo un'inflazione a due cifre che ormai è un ricordo lontano della mia infanzia e vorrei lasciarlo lì. Ministra Stefania Giannini, io la ringrazio, la saluto, quindi questi punti principali per Scelta Civica. Per quanto riguarda le europee, siamo veramente agli sgoccioli con le elezioni, e poi ci risentiremo dopo i risultati. Allora. Certo, grazie mille. Grazie Ministra, buona continuazione. Grazie. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Invece adesso chiudiamo con il cinema. Abbiamo parlato già ieri dell'esordio di Cannes, dell'apertura ieri della 67esima edizione del festival. C'è sempre per noi Cristina Battocletti, inviata lì dal Sole 24 Ore, che sta facendo un'indigestione di film. Oggi è sbarcato il primo film italiano, vero Cristina? Poi un film italiano particolare. Sì, Roberta, oggi c'è stata la Semaine de la Critique, che è un'altra sezione rispetto alla competizione, il primo film italiano che si chiama Più buio di mezzanotte, di Sebastiano Riso, che è un palermitano, e ha raccontato la storia di questa drag queen fucsia degli anni giovanili, quindi degli anni più difficili, in cui cercava di capire la propria identità omosessuale, è una specie di ragazzo di vita pasoliniano. È un buon film ed è stato applaudito per quasi mezzo minuto, che però devo dire che a Cannes, insomma, è già qualche cosa. Dopo i fischi di ieri a Nicole Kidman per Grace, mi sembra che si siano ripresi un po' i critici. Sì. E poi abbiamo visto, il film del grande Mike Lee, che però non ha fatto un film dei soliti suoi, forse perché proprio di solito lui prende gente comune e ne nobilita i sentimenti, invece questa volta è andato su un grande personaggio che è Turner, il pittore vedutista inglese. Purtroppo fatto con le migliori intenzioni, con la migliore fotografia, con i migliori attori, però non ha cuore, non ha il cuore degli altri suoi film, faccio per dire Segreti e bugie, Il segreto di Vera Drake, insomma è stato applaudito timidamente. E invece ha colpito il cuore, questi pochi secondi che abbiamo ancora, un documentario, una pellicola sulla Siria, no Cristina? Sì, è una specie di documentario, diciamo che c'è un regista siriano che sta a Parigi, che ha contattato una regista siriana che sta invece in loco e si è fatto mandare tutte le immagini, hanno costruito un film impressive, direbbero gli inglesi, cioè di incredibile intensità, perché è riuscita a unire le storie del terrore, quindi torture, spari, uccisioni, a quello che può essere lo stupore di un bambino di fronte a un fiore. Incredibile. Grazie Cristina Battocletti, grazie da Cannes. Grazie a voi. Ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Adesso io vi devo lasciare, guardavo ancora diversi vostri messaggi, ma il tempo stringe come sentite dalla sigla, quindi ci risentiamo tra poco per i titoli.